Ma tu ti rendi conto, Parenzo, come si fa a essere così tafazzisti, e non vorrei sbagliare termine, come si fa a darsi una coltellata, un'autocoltellata sul ventre, o a schiacciarsi i testicoli con un martello, no? Mamma mia, che immagine! Come si fa? Come si fa dopo il bellissimo confronto di ieri con un grande pubblico su Rai 1, oggi andarsi a incistare su questa vicenda delle regole per chi non ha votato al primo turno, e tutti contro Renzi per quell'appello pubblicato su alcuni giornali? A parte che di questa cosa non ne parla nessuno, diciamo, nei bar, no? Non è che per strada vedi la gente: oddio, sapete che oggi Renzi ha pubblicato un articolo sui principali quotidiani italiani dove invita la gente ad andare a votare? No, ecco, non si parla di questo. Che poi, tra l'altro, ha fatto semplicemente un appello al voto, cioè non ha detto votate per me, ha fatto un appello al voto. Sì, qualcuno parla anche di possibile mail bombing, cioè si invita a mandare la propria richiesta di partecipazione al voto del ballottaggio di domenica, non individualmente ma attraverso un altro sito. E dunque qualcuno dice, insomma, c'è il rischio di inquinamento. Ma lasciate la gente andare a votare, se vuole non cambierebbe nulla, 100.000, 200.000 in più, non cambia niente. Infatti io sono qui con il mio amico tassista simpaticissimo, sì, che mi sta riportando in redazione. Lui non è. Lei è angosciato da questa vicenda delle regole del PD, delle primarie? È angosciato lei, no? Sì, io sono angosciato. Hai sentito quanto è angosciato, no? Ma lui andrà a votare, no? Il signor tassista? Lei andrà a votare, professore, alle primarie del PD? No, assolutamente no. E perché no? Assolutamente no? E perché assolutamente no? Perché se ne fotte? No, carità. Non riesco più a capire la politica italiana. Passa con Rosso, qui, fregatene. Passa. Pronto? Ma è del PD il signore, oppure di non so che cosa? Il tassista Mauro, sì. Il nome è di fantasia perché lui non vuol farsi riconoscere. Vabbè, non è che sia. No, però la parola. È del PD lei, Mauro? No, io sono apolitico. Apolitico, anche infame, come dicono a Roma. Sì, esatto. Lei è apolitico? Sì, sì. E come mai è apolitico? Perché non riesco a capire purtroppo la politica in Italia. Si è rotto i coglioni? Un pochettino. Il tassista moderato. Allora, capito? Berlinguer, dici se conosce il signor Luigi Berlinguer, il tassista. Conosce il signor Luigi Berlinguer? Conosce il signor Berlinguer, lei? Mi sembra che era del partito di sinistra. Sì, del Partito Comunista, ma non Enrico Berlinguer. Luigi Berlinguer. Quello è Enrico. Signor Enrico però è morto, poverino. E c'è il Luigi, che è il cugino, è stato ministro della pubblica istruzione, ora è presidente della commissione Garanti. Ti piace? La commissione Garanti. Allora, Berlinguer dice elettore ingannato, regolarità del voto turbata. Berlinguer, tra l'altro, per carità, persona amabilissima, eccetera, non dovrebbe stare al Parlamento europeo a fare il parlamentare europeo. Cioè, uno o sta al Parlamento europeo oppure non è che diventa il presidente del Comitato dei Garanti, perché in questo momento al Parlamento europeo, tra l'altro, ci sono sessioni, uno deve andare a Bruxelles, a Strasburgo, allora lo fa il presidente del Comitato. Cioè, tutta questa gente dell'Europa, del posto in cui sono stati eletti, non gliene frega assolutamente nulla. Sono lì a fare il Comitato dei Garanti. Però noi l'abbiamo visto. Sì, ho capito, ma intanto uno va a fare il Comitato dei Garanti, stai al Parlamento europeo, no? Questo inganna l'elettore, gli fa credere che basta che mandi la mail perché sia iscritto. Lo induce in un errore e questo turba la regolarità serena dello svolgimento del voto. Turba, e questo, badate, è una cosa delicata, molto delicata. Hai sentito come batteva la mano? Turba. Ma è bravissimo, io ti ho detto mille, voglio svelare ai nostri radioascoltatori questa cosa. No, aspetta, c'è tempo, un attimo. Ho sempre detto. Ma un attimo. Va bene, loro va bene, vogliono l'inferno, noi il paradiso. Ma a che proposito loro vogliono l'inferno? Chi? Quelli di Renzi? Chi? Bah. Intanto sono stato un po' colpito da un messaggio che casualmente abbiamo intercettato, che proviene da Trevi, che dice: portiamo tanta gente a votare, scatenate l'inferno. Io vi devo dire che non mi piace l'inferno. Noi vogliamo costruire il paradiso, non l'inferno domenica prossima. Vabbè, ma saranno quattro persone da Trevi, scateniamo l'inferno. Ma c'è di tutto nelle primarie, caro Berlinguer. Hai sentito come battevano? Sì, no, ma soprattutto bisogna dire all'ottimo Berlinguer, che è un amico peraltro, che la citazione dal film Il Gladiatore, cioè non è una cosa violenta. Ma sì, nel film su. Il Gladiatore c'è Russell Crowe che dice: al mio segnale scatenate l'inferno. Cioè era una citazione giovanilistica, non di guerra. Su, su. Comunque oggi è tutti controvendolo, almeno la parte bersaniana, naturalmente, per questo appello, che non è firmato Renzi, tutti contro Renzi volevo dire, non è firmato Renzi, ma c'è un invito ad andare a votare, a registrarsi, poi ci sono le regole per registrarsi, anche molto strette, bisognerà provare che uno è stato polifratturato, come dice la Moretti, o ha avuto impedimenti gravi per 20 giorni, ci saranno casi limitati, per me è una follia, per me è una follia. Polifratturato. Sentiamo, polifratturato. È così ha detto la Moretti, la portavoce di Bersani. Bendola, c'è una persona tra l'altro in collegamento con noi che davvero si è fatto male, e magari vuole trovare spazio per domenica, chissà, chissà. Bendola, è da Berlusconi cambiare le regole in corso, e che... E l'idea che le regole si possano cambiare mentre in corso la partita è stata una, diciamo, un ingrediente continuo degli anni del berlusconismo. Per questo sono un po' amareggiato, perché Matteo Renzi con la sua... Vabbè, Isidori sulle carceri l'abbiamo già mandato ieri, ma è quello di ieri? Isidori sulle carceri, oggi è sbeffeggiato dappertutto. Io lo voglio difendere invece il signor Isidori, perché ha la licenza media, credo, se non sbaglio, leghista con licenza media, nato a Macerata, ha fatto un intervento alla Camera che era semplice semplice, dicendo che è contrario all'amnistia, all'indulto, chi è in carcere deve rimanere in carcere. Uno può contestare, però uno non è che se la può prendere con Isidori perché media, è ignorante, signor Isidori. Ma cosa c'entra? Vabbè, sentiamolo di nuovo, va. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Quando capita un momento no, dentro hai un'angoscia che... Hanno fatto pure l'esposto contro Renzi, l'esposto contro Renzi. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Sai chi voterà per Renzi domenica? Chi tenterà di votare per Renzi domenica? Caro Parenzo? Ma la platea, voglio dire, sai, no, così, ma lo sai o no? Indizio. Ah, indizio. Una persona che lavorava, una persona che lavorava con la Moratti. Lavorava, con ho detto, lavorava con la Moratti. Signor Glisenti, però non è molto conosciuto dal grande pubblico. No, no. Signor Red Ronnie, buonasera. Ah, beh. Ciao, buonasera a voi. Come andiamo? Come andiamo? Sto molto bene adesso. Ma che si è fatto lei? Si è fatto male, scusi, signor Ronny? Sì, a un concerto di Cesare Cremonini sono inciampato nella pedana, sono caduto, sì? Mi sono rotto una costola e ho spaccato un po' la telecamera. Ma scusi, lei non ho capito bene, si è registrato o si vuole registrare? No, io ho mandato una mail per registrarmi, perché domenica non sono neppure andato al concerto di John McLaughlin, come giustificazione dovevo mettere quella, ma per loro non vale. E i 20 giorni precedenti, quando c'era tempo? No, ma io ero con un avversamento pleurico, mi dovevano tenere all'ospedale, quindi non pensavo minimamente alle primarie. Non pensavo alle primarie, però volendo poteva registrarsi. Volendo sì, ma non capivo neanche, pur frequentando i media, sì, c'era un bel casino, cioè nel senso, sì, che sì, io odio la burocrazia, nel senso, per me uno va, una volta ci andava, si pagava e si votava. Vabbè, insomma, lei vuole presentare una giustificazione, anzi ha già inviato una giustificazione, che sarebbe sostanzialmente questo incidente che le è avvenuto. Ma quando le è avvenuto questo incidente? Questo incidente mi è venuto alla fine di ottobre, però è stata incrinata, dopodiché mi si è rotta e ho annullato, sono rimasto in casa perché ho firmato per non stare in ospedale. Beh, questo è buono però, potrebbe essere valido, Parenzo, che dici? Io credo di sì, adesso chiamo Nico Stumfo, che sì, è un po' il deus ex machina di tutta la vicenda, sì, ma credo che possiamo accettare questa sua... Sì. Ma come sta adesso, fisico? Cioè, come andrà il seggio con le stampelle? No, io adesso adesso è guarito. Sto meglio. Ciò che preoccupa, quando ti rompi una costola senti solo dolore, la preoccupazione era per il versamento pleurico. Allora, la notizia è questa, ma Red Ronnie si è rotto però una costola, si è rotto una costola alla fine di ottobre, sì, vuole votare per Renzi, credo, sì, no? O sbaglio? Sì. Sì. Sì, vuole votare per Renzi, comunque vuole andare a votare per le primarie del centrosinistra e insomma sta cercando, ha inviato tutte ed è in attesa di risposta. Qui lo sa che se non rispondono secondo l'ultima delibera lei non può votare, eh? se non rispondi. Sì, no, ma la cosa bella è che ti dicono che tu devi aspettare, ti daranno la risposta il sabato mattina. Sabato mattina. Vale. Se una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare se lo vuoi, se l'umore va giù, se non ce la fai più. Signor Ronny, perché è diventato, si è appassionato a Renzi dopo essere stato al fianco della signora Moratti? Dunque, io non mi sono appassionato a Renzi dopo, ma prima. Io ma Renzi, prima? Ho collaborato con Renzi quando lui era presidente della provincia, sì, e organizzavo per lui degli incontri a Palazzo Medici Riccardi con gli studenti. Vabbè, questo che c'entra. Però lei è stato poi, come dire, uno dei collaboratori della Moratti. Ho intervistato anche Fidel Castro. Io collaboro con le persone. Ho la foto di me che ci diamo la mano con Bersani, dove gli dico che ho molta fiducia in lui. Se vuoi te la twitto subito. No, ma questo d'accordo, però che c'entra? Lei adesso sta dicendo che vota per Renzi alle primarie del Partito Democratico dopo essere stato uno dei principali collaboratori della signora Moratti, guida di Milano del centrodestra. Ma per la quale avrà votato? La signora Moratti l'ho conosciuta ai tempi di Vincenzo Muzzoli e di Sant'Adriano nell'83, quindi è un rapporto personale. Non è colpa mia se, e questa è la cosa grave di cui non hanno parlato, cultura e turismo, ma non è colpa mia se la signora Moratti mi ha permesso di fare una mostra in Piazza Duomo con tutta la mia collezione, che è la più grande d'Europa, quando Bologna, la mia città, non me l'ha permesso. Ma cosa hanno in comune, scusi? Cosa hanno in comune la Moratti e Renzi? Ma sono due persone molto pratiche. Molto pratiche. Sì, ma difatti il problema ma scusi, ma che dicono in rete, i bersaniani in rete, che le dicono? No, fra l'altro la cosa strana è che qui si accusa Renzi di aver fatto, io sono in questo momento sono attaccato da fake che sto postando su Twitter, per profili creati ad arte, proprio oggi o in questi giorni, per fare spamming contro Renzi. Vabbè, comunque, Ronny, lei vuole votare assolutamente domenica, giusto? Sì, certo. Vuole votare assolutamente domenica, però lei non è proprio il tipico elettore del centrosinistra. Ma io sono anarchico, quindi io non sono il tipico elettore, io sono anarchico, bandiera rossa e nera come quella del Milan, William Wright, la rivoluzione sessuale, quando ho letto quello ho capito tutta la vita. Io credo solo nella spiritualità, non credo nella politica. La politica sono come le squadre di calcio, hanno una bandiera, ma quando ti danno più soldi vai dall'altra parte, quindi non esiste più la politica. Quando un mio amico... Lei crede nella spiritualità? Un mio amico Camere di estrema sinistra mi diceva: sto facendo il tifo per Fini per far cadere Berlusconi. Dico: ma ti rendi conto che fai il tifo per uno di AN? In quel momento lui ha realizzato che lui di estrema sinistra tifava uno di AN, quindi sai, ormai non esiste più questa cosa. Parenzo, hai capito? No, ho capito che c'è molta confusione sotto il cielo, cioè capisco che un uomo senza ideologia è il nostro Ma questo non ce n'è, questo non c'è niente di male. È anche una cosa positiva. Ma cos'è l'ideologia? Ideologia? Ma io ho un'ideologia che va ben oltre. Ma se non la fanno iscrivere? Io ho un'ideologia che va ben oltre. Io ho rinunciato a centinaia di milioni per non pubblicizzare prodotti dannosi alla salute. E questo si rilascia a un programma che facevate voi prima, dove si diceva che certi hamburger fanno, anche se non fanno bene, eccetera. Quella è un'altra ideologia che ho io. Ma non lei è la... quella, scusi, non se... è quella di pensare che per contaminazione a catena, se io twitto una cosa a Flavio Briatore, che ho conosciuto perché abbiamo fatto insieme una roba di conseguenza, visto che Flavio Briatore ha ospitato Berlusconi. Ma no, ma che c'entra? Ma quello no. Ho capito, ma lei ha lavorato. Ho capito, lei però ha lavorato per la Moratti. Ho lavorato per una amica. Ma mi ricordo anche che faceva, anche che diceva che era un sindaco. Attenzione, quello che la Moratti ha fatto per il suo comune non lo potrà mai fare nessuno. Vabbè, quello appunto. Ha portato un Expo, ha portato due metropolitane. Va bene. Lo ha pagato con i suoi soldi, i voli aerei per conquistare l'Expo. Ma ci crede, è miliardaria. No, come non lo diamo? Lo sappiamo che è milionaria la signora Moratti, non è che non lo sappiamo. Però ci sono tanti milionari che hanno usato la politica per diventare miliardari. Lei non aveva bisogno. Comunque lei, dalla Moratti, adesso tifa Renzi. Questa è la sintesi nostra giornalistica. Non è che io tifo Moratti, io non ho mai tifato nessuno. Vabbè, ma io tifato lavorato, in senso giornalistico, su. Lavorare, io non ho mai... Voi la volete mettere tutta sul fatto. Voi ma scusami, perché fate le scatole? molto signor semplice. Red, no, bene, ma è per il dire... nuovo, questo nuovo che esiste, quello che sta portando avanti Renzi, è qualcosa di totalmente diverso. Ma Bersani è vecchio? Non esistono più. Bersani purtroppo è rimasto. Io mi aspettavo chiedesse scusa per Penati, non chiedesse scusa al prete di una volta. Ah, quello ieri al confronto, eh? Quello al confronto. Doveva chiedere scusa per Penati? Certo, eh. Ma le è piaciuto questo confronto? Ma no, perché si vuole fare gli americani, ma noi non siamo americani, non servono questi confronti. Tanto sono tutti bravi a parlare. Scusi, ma lei che fa il 21 di dicembre? No, non voglio pigliare in giro, non la voglio pigliare in giro, non attacchi il telefono, non la voglio pigliare. No, il 21 di dicembre, sì, certo. Il 21 di dicembre apriamo su Roxy Bar TV in diretta con il titolo Il mondo rinasce dalla musica, avremo gli Alta Pressione, avremo musica dal vivo e faremo una notte di musica. E vabbè, questo è quello che fa lei. Per i Maya, per la roba dei Maya. Sì, non lo so. La roba dei Maya non cioè il 21 dicembre che succede? Che succede? Non parlo del terremoto, per carità, non attacchi il telefono. No, non parlo del terremoto. Per no, carità. Non so cosa succederà il 21 dicembre, non ho queste preveggenze io. No, ma non succede qualcosa. No, ma lei crede ai Maya? No, no, ma non crede che è la fine del mondo questa cosa qua del 2012? No, non ci credo, la fine del mondo c'è già. Voi state assistendo alla fine del mondo. Cioè, che ma come c'è già? La politica è finita. Il nuovo è questo. Qual è il problema ad esempio del PD in questo confronto? Sì, qual è? Non è il problema se vince Renzi o se vince Bersani, il problema è un altro. Qual è? Che il PD è sempre andato avanti non per meritocrazia, ma io sono il vice segretario, tu segretario vai su, sì. Io divento segretario, non importa se io, e noi a Bologna l'abbiamo pagata duramente perché Bologna il PD non ha scelto un sindaco giusto per anni. E invece Renzi? Siamo stati commissariati. E invece Renzi? Allora, cosa succede? Succede che se vince Renzi, sì. Si viene scardinato tutto questo meccanismo automatico e non privilegia più la meritocrazia. E questo è il vero problema, perché non è il problema... Ma lei vorrebbe lavorare per Renzi? Le piacerebbe lavorare per Renzi? Ma io ho già lavorato per Renzi. Vabbè, quando era presidente della provincia, d'accordo, ma adesso... È stato molto bello e Renzi non è cambiato. Io ho fatto vedere una roba a Roxy Bar TV di Jovanotti quando arriva Renzi, sì. Che fa un discorso molto breve dove c'erano già gli stilemi del suo pensiero di oggi. Ah, a proposito, Jovanotti appoggia Renzi, no? Certo, perché lo ha conosciuto e sì. Gli piace. E Jovanotti ha dichiarato che Renzi parla di rottamazione, dice sì. Io mi rottamo tutte le volte che faccio un disco nuovo. Ma non è che gliel'ha presentato lei, no? Sì, gliel'ho presentato io. Come gliel'ha presentato? Io dicevo così una battuta, è vero? È vero, certo. Io chiamai in questo incontro che facevo con gli studenti a Palazzo Medici Riccardi, sì. Chiamai alcuni artisti, tra cui i Negramaro, i Nomadi, sì. Gianluca Grignani e Jovanotti, e tutte le volte arrivava Matteo Renzi, quando riusciva a fare una presentazione iniziale sì. Di un minuto, e anche lì l'ho apprezzato perché era brevissimo, io ce l'ho l'integrale di questa presentazione, e poi andava via. E io gli ho parlato bene a Jovanotti di Renzi, poi loro sono frequentati indipendentemente da me. C'è il suo zampino, c'è il suo zampino, c'è il suo zampino in questa cosa. Sì. C'è il suo zampino. Comunque anche lei fa una bella endorsement, Red Ronnie endorsement per Renzi. Scusi, ma però endorsement. Ma se non la se non le permettono, scusi. Totale. No, ma ho capito, Red Ronnie, se non le permettono di andare a votare che fa lei? Si incazza come una bestia? Assolutamente no, accetto, mi diverto. Come non è che il mio voto cambierà la situazione. Però attenzione, io sto dicendo questo. Noi nel 69, io quando ero un 69, ragazzino, sì. I più grandi di me, che oggi sono quelli che dirigono i partiti di sinistra, sì. Erano contro la giustificazione dei genitori da presentare a scuola. Sì, e oggi mi trovo a dover dare la giustificazione per andare a votare nel partito che era contro la giustificazione per andare a scuola. Questa non è male però, Parenzo, questa non è male. Cioè, all'epoca la sinistra era contro la giustificazione a scuola, queste cose formali, eccetera, eccetera, la libertà. Eccetera, eccetera. Adesso invece tutti con ste regole, i codicilli e Berlinguer, eccetera, eccetera. Red Ronnie, dalla Moratti a Renzi. Scusi se riassumo così, però mi capita. Arrivederci, a presto. Capita alle persone che non hanno ideologia di dover riassumere così. Come non hanno ideologia? Io non ce l'ho ideologia, infatti. Cioè, lei, ai cretini? Ai cretini, dice lei, capita? No. Scusa. Qual è l'ideologia, Cruciani? Ma no, ma sto scherzando. Lei ha collaborato con la Moratti, adesso le piace Renzi. Punto e basta. Io nessuna, per fortuna, guardi. Nessuna. Ah, ecco, punto. A presto. Auguri. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un sol twist, e balli un sol twist. Il carcere... è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Ma lo sapete che Nichi Vendola ha scritto un libro di poesie sull'Ilva? Lo sapevi, Parenzo? Non lo sapevo. Un libro di poesie sull'Ilva. Perché non te lo sei comprato immediatamente? Ma perché devi fare dell'ironia? Un libro di poesie sull'Ilva. Ha una penna... Perché tu non leggi poesie mai? Sì, ma... Tu scrivi poesie? Vabbè, sentiamo. Mi pare che ci sia stata un po' una sottovalutazione da parte di tutti e un silenzio un po' colpevole, forse anche da parte vostra, rispetto ad esempio a questa sottovalutazione degli altri governi. Guardi, io ho provato a metterla perfino in poesia. Ho raccolto tutte le lettere e i disegni che mi hanno inviato i bambini delle elementari di Taranto in un libro intitolato Sognando nuvole bianche. E da sempre ci ho provato, ti ho inseguita. Dalla sera alla mattina, dal soggiorno alla cucina, dal giardino alla cantina, ti ho inseguita. Ieri avevamo detto che il tapiro lo aveva preso Renzi, in realtà l'ha preso anche Bersani. Ma vediamolo a Renzi alle prese con Staffelli. Una botta col bacio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro, una botta col bacio e poi all'altro, una botta. Eccolo, nel braccio e poi all'altro. Arriva. Ho seriamente la speranza di battersi questa. Se gli italiani vanno a votare, noi ce la faremo. Prendila, schiacciala. E poi ancora contro la Bindi. Ma lei si ricorda una volta che la Rosy Bindi ha indovinato qualcosa? No, io mai. È per questo che li voglio rottamare, perché non ce ne ricordiamo una volta in cui l'ha azzeccata. Ma perché la signora Bindi la odia così tanto? Questo dovreste chiederlo a lei. Lei proprio mi vuole un bene, ma un bene che è pazzesco. Ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede. Ma lei gira sempre intorno a me e balli sul twist. E sentiamo le giustificazioni dello stesso Renzi su domenicavoto.it, insomma sul casino che sta succedendo. Chiudiamola qui. A me le regole, certificati medici, le regole non biglietti piacciono, aerei, non insomma, convincono, ne abbiamo letto siamo tutto. Alla follia, insomma a un certo punto qualcuno ha detto chi vuole andare a votare deve portare la giustificazione a stumpo. Ora, ieri è uscita Margherita Hack, che ha detto che avrebbe votato Vendola al primo turno e che ha detto io non ho votato al primo turno per ragioni mie, scientifiche, eccetera, vado a votare al secondo turno. Lei si immagina Margherita Hack che va a portare la giustificazione a Nico Stumpo? È una roba che siamo una bella scena, nelle saghe delle barzellette di tutto il mondo. Allora. Che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. I titoli del TG3, sentiamo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. ONU come stato osservatore, l'ambasciata israeliana, molto delusi dall'Italia. Sono arrivati da Genova, Novi Ligure, Racconigi, gli operai Ilva, Roma per il vertice tra governo e parti sociali. Ci state rubando il futuro. Monti, domani il decreto per l'Ilva, ma non vogliamo contrasti con la magistratura. Il sistema sanitario no ai privati, ma deve essere sostenibile. Italia, i fondi del Policlinico Gemelli di Roma mettono in ginocchio il polo ospedaliero d'eccellenza, l'allarme dei vertici del nosocomio. Primarie del centro-sinistra, nuovo scontro sulle regole del ballottaggio, esposto dei quattro candidati contro Renzi, fa opera di disinformazione. E nel PDL tramonta l'ipotesi delle primarie, Berlusconi rinvia l'annuncio di una nuova forza politica, si rafforzano le voci di scissione. La battaglia di una coppia portatrice di talassemia per la diagnosi preimpianto, legge 40, ricorso del governo contro la Corte europea. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Fabrizio ci chiama da Siena, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Panelli. Vada. Dirò una cosa che probabilmente mi manderà a quel paese, a me lo faccio lo stesso. Riguardo alle regole, sì. Volevo fare un esempio, se è possibile. Cioè, se io e lei decidiamo di giocare a 3-7, sappiamo che il 3 vale più dell'asso. Sì. Se io a mezza partita mi ritrovo con 4 assi e lei a 4-3 e so perfettamente che perderò, non è che posso dire poi no, questa regola non mi piace perché secondo me l'asso vale più per 3. Se vuole e mi permette, le faccio un esempio, io non sono del PD, sono del Movimento 5 Stelle, se lo posso dire. Sì. Uno che si candida con Grillo sa che deve seguire certe regole, per esempio non ti puoi alleare con nessuno, è scritto nello statuto, è scritto nel codice, e se poi uno lo fa e Grillo ti butta fuori, credo che abbia tutte le ragioni, cioè nessuno, non è che il dottore te lo ordina. Se accetti certe regole all'inizio, secondo me le devi seguire, se no è troppo comodo. Cioè, se Renzi invece di avere 9 punti di distacco magari fosse stato in vantaggio, io non so se avrebbe fatto la stessa cosa. Ma io penso di sì. Beh, in ogni caso il problema è molto semplice: siccome le norme all'inizio erano interpretabili, sono state interpretate successivamente in maniera molto restrittiva, in maniera molto restrittiva, cioè bisogna presentare una giustificazione, condizioni eccezionali. No, che è un'idiozia, per me è un'idiozia clamorosa quella di presentare la giustificazione, però per quello che mi risulta erano state largamente condivise queste regole. No, condivise, ma condivisa non credo, cioè Renzi l'aveva accettata e non aveva nemmeno partecipato alla, credo, alla redazione di queste regole, ma quello fu un errore politico probabilmente. Comunque lei dice non si deve rimettere tutto in gioco, giusto? Sì, più o meno sì. Cioè, comunque, per coerenza, se lui pensa di essere vittima di un complotto, io a questo punto potrebbe anche dire, va bene, io il ballottaggio non lo faccio nemmeno. Cioè, fate come vi pare, perché fate apposta per farmi perdere. Cioè, per coerenza potrebbe fare anche questo, certo. Va bene, grazie. Antonio, provincia di Milano. Questo ha ragione. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Guardi, io sono un militante del Partito Democratico. Sì. E devo dire che sono indignatissimo per questo comportamento di Renzi. Perché? Perché il suo linguaggio non fa parte del linguaggio di un partito democratico dove si discute, dove ci sono delle regole. Sì. Il suo linguaggio, Renzi è partito col piede sbagliato, dicendo che deve rottamare. La parola rottamare già... Vabbè, a quello adesso non se ne parla più, si sta parlando di un'altra cosa. Non se ne parla più, però lui l'ha utilizzata non contro chi ha governato in questi 20 anni, l'ha utilizzata contro il suo, diciamo, il suo... Ho capito Antonio, però adesso non si sta parlando della rottamazione, eccetera, si sta parlando di un'altra cosa. Scusi, io dico questo, qui... Le elezioni devono avere delle regole, perché sì, c'è un rischio di, è vero, è inutile da dire, di che c'è cosa? Di inquinamento. Di che cosa? Mi scusi, se nel partito di Berlusconi si presenta uno alle primarie e dice se vinco io mando a casa Berlusconi tutti quanti, io che anche se sono del Partito Democratico io vado a votarlo quello lì, non mi permette. Ho capito Antonio, però mi sembra che il pericolo di inquinamento già... Esiste nei fatti, perché il linguaggio di Renzi non è contro chi, ripeto, ha mandato questo paese alla rovina. Il linguaggio di Renzi è contro i dirigenti del Partito Democratico, contro Bersani. Beh certo, è un suo avversario in questo momento Bersani, però lui ha detto che rimane dentro il partito. Vabbè Antonio, grazie. Francesco da Roma. Però è sbagliato il meccanismo che tu devi inondare il comitato dei garanti di fax per chiedere deroghe, perché è una cosa, la deroga è eccezionale, no? Non hai votato al primo turno, questo è il senso di quella roba. Non hai votato al primo turno, allora Francesco dicono... da Roma. Sì, buonasera. Senta, io ho sempre votato centrosinistra alle primarie, però sinceramente sono andato a votare anche stavolta, ma mi sono sentito preso in giro. E dico subito perché. Mi è sembrato che intanto le regole sono state fatte quando, non è vero che sono state fatte prima, quando già era in corsa si sapeva quali erano i candidati. Poi, sinceramente, le regole sono, è vero, una grande manifestazione di democrazia, però quando sono fatte bene, queste regole sono servite a dare visibilità al PD, di cui io, che ho sempre votato dall'inizio. Vabbè, allora? Però stavolta mi sembrano, ho presente le regole nazionali, chiamate il porcellum, ecco, io queste le chiamerei porcellinum. Perché? State fatte apposta per evitare che Bersani potesse perdere. prima è stato fatto il doppio turno in modo che Bersani... Ma veramente il doppio turno in questo momento favorisce Renzi, perché altrimenti avrebbe già perso. Sì, d'accordo, però all'inizio si aspettavano che Renzi potesse vincere il primo turno. Poi? E così hanno consentito a Bersani di avere i voti di Vendola. Poi hanno bloccato però nel secondo turno eventuali votanti aggiuntivi. Sinceramente non lo so, io secondo me l'apparato, è brutta parola, però l'apparato del PD ha non paura ma terrore di Renzi. È una cosa, evidentemente Renzi ho capito benissimo, peccato, Francesco, no? Loris da Roma, buonasera. Buonasera a tutti. Senta, io volevo dire soltanto una cosa, le idiozie che stanno facendo nel PD per queste primarie, tra l'altro su internet, su Twitter circolano dei manifesti per Bersani in diverse città, dei manifesti fatti dai comitati per Bersani, affissi in diverse città, credo in Piemonte eccetera, credo a pagamento anche quelli, per cui anche Bersani tra l'altro pare aver comprato comitati per Bersani una pagina su un quotidiano. Non l'ho seguita questa cosa. Allora, dicevo, quello che stanno facendo per le primarie del PD e tutto il caos che stanno facendo nel PDL, secondo me è la miglior campagna elettorale che si possa fare a favore di Grillo. Cioè, ma non credo, così, non credo, non credo. Se gli italiani sono un popolo che con un minimo di intelligenza, cioè vedere quando se fanno delle certe cose all'interno del PD e altre cose all'interno del PDL, cioè, sì, a me personalmente mi portano a votare per Grillo. L'altro giorno Luca Cordero di Montezemolo, Parenzo, era a Napoli. Sì. All'ingresso uscita di una pizzeria è stato accolto in questo modo. Bisogna sentire le voci, oppure guardare il video su internet, perché sta spopolando, per rendersi conto di quale follia ci sia in giro. Perché va bene prendersela con i potenti, tutti hanno il diritto di protestare contro chiunque, non è questo il punto, uno può andare a protestare eccetera, ma sentite le stronzate, si può dire, le cose assurde, ridicole dette, io non voglio difendere Montezemolo, non me ne frega assolutamente nulla, dette da questa piccola folla inferocita nei confronti di Luca Cordero di Montezemolo. Montezemolo, pagaci le tasse, pagaci, pagaci, pagaci le tasse, Montezemolo, pagaci le tasse, Montezemolo, Ancora. Hai capito, la colpa è tua e di gente come te, hai capito, Montezemolo, peschi falcesse, hai capito? Vergogna! Vergogna! Vergogna! Le tasse sempre gli stessi! Le tasse sempre gli stessi! Sempre gli stessi le tasse! Sempre gli stessi a pagare la crisi! Sempre gli stessi! Senza lavoro, senza casa, siamo sempre gli stessi! Ti rendi conto della follia? Sì, ti rendi conto della follia, sì. La mamma dei cretini è sempre incinta, non mi stupisce. Gente matta, pericolosa. Senti Don Gallo, Renzi non Don Gallo, Renzi non è intelligente, ha dietro l'Opus Dei. L'Opus Dei, Don Gallo, il tuo amico Don Gallo. Renzi non è intelligente, quindi. Voi stessi avete dovuto dire che è teleguidato, ha voglia, c'è un'organizzazione dietro che solo Dio lo sa, addirittura anche l'Opus Dei, quindi se questo è il futuro dell'Italia ha ragione Beppe a mandare tutti a quel paese. Questo da Chiambretti, che avete sentito per qualche secondo, ha dietro l'Opus Dei, il tuo amico Don Gallo. Ma le primarie del PDL che fine hanno fatto? Non condivido. Le primarie del PDL credo che siano finite nelle segrete di Arcore. Ah, come Albertini, che tale sempre di finire nelle segrete di Arcore. Sono finite nelle segrete di Arcore assieme ai misteri che, come dire, circondano la storia del sequestro del ragionier Spinelli. Entrambe le cose, sia le primarie del PDL sia il sequestro lampo del ragioniere di Berlusconi, sì, tra l'altro indagano anche i servizi segreti tutta quella vicenda, come sai, sì, sono finiti nelle segrete di Arcole e rimarranno i misteri italiani, uno dei grandi, cioè, misteri rispetto italiani a questo piccolo casino che sta accadendo intorno al Partito Democratico sulle regole della registrazione, sì, non è nulla, nulla. Cioè, è nulla rispetto a questa farsa continua del PDL o di quello che rimane del PDL, una farsa continua. Ieri sera si è consumata una tragicommedia, tra l'altro a porta subito dopo il confronto a TG1, Meloni versus Santanchè, erano tutti contro tutti, non sapevano che dire, forse sospendono, forse no, tutti in attesa delle decisioni dell'imperatore, come direbbe Albertini. Sono un'ora che noi diciamo che serve una scossa e che invece le primarie nel sistema nel quale ci troviamo noi e nel Popolo della Libertà, cioè in un partito nel quale di fatto tutto è stato calato dall'alto, sono la scossa più grande che si possa immaginare, ragazzi, diciamoci la verità. Certo, per questo ti dico che servono le primarie, per questo io ho depositato la legge per introdurre le preferenze. Se poi mi si dice le primarie no, le preferenze no, il problema è che rimarremo così tutta la vita, ragazzi. Io provo a cambiare, ma mi dovete dare una mano. Anello a casa, insomma, anche dai, a te, come a me, una mano per come cambiare a Maria cose. Stella Gelmini, come a Lupi. Ancora Meloni versus Santanchè. Ma non sarebbe ora, scusate, di farvi più, scegliere? È quello che sto dicendo, non voglio più. Non sentite l'orgoglio di farvi scegliere invece che voglio dover aspettare di scegliere? Se no, vado a casa, non dalle correnti, non dalla nomenclatura. Dalla gente sarebbero le primarie. Dalla gente sono le primarie. Degli italiani, avete paura degli italiani? Perché? Guarda, se c'è una che non ha paura degli italiani, allora misuriamoci, preferenze primarie, misuriamoci con gli italiani, con quello che credono. Discutere su questo perché è benissimo essere diversi. L'ironia di Vaime su Sallusti, sentite. Ma il discorso è, ma ci ricordiamo che le condanne non sono una punizione o una vendetta, sono un tentativo di recupero di chi ha sbagliato. Questo ce lo siamo sempre scordati, il povero Beccaria nella tomba frulla come un girmi. Non significa niente stare ai domiciliari piuttosto che in prigione. Siamo sicuri che il condannato in 920 metri quadri, 4 piani, una piscina coperta, riesca a venire recuperato da questa società? Nessuno se l'è chiesto, noi sì. Beh, nessuno si è posto questa domanda ridicola, certo, non c'è dubbio. Nessuno si è chiesto questa stronzata, su questo non ci sono dubbi. Detto con tutto rispetto nei confronti del signor Vaime, ma nessuno si è posto questa questione perché è surreale, francamente. Concordo con te perfettamente. Insomma, va bene tutto, però non è che uno può dire ma perché, ma siccome il carcerato si deve recuperare, beh, si può recuperare i 920 metri, ma non c'entra nulla, sono gli arresti domiciliari. Uno non è che per recuperare deve stare in una stamberga oppure a pane e acqua per recuperare, no, per essere recuperata dalla società. Non c'è dubbio, su, dai. Non ho mai sostenuto io una stupidaggine. Mica ho detto che l'hai sostenuto tu, per fortuna. Cioè, però sostengo. Comunque devo dirti prima un'altra cosa che mi è venuta in mente che ti farà arrabbiare. Sì. Non vorrei che tutta la gazzarra di oggi, la stupidaggine detta dai bersaniani sulla pubblicazione fatta da quelli, sì, di Renzi, la conferenza stampa che loro hanno convocato, in verità questo nervosismo nasconde un po' che c'è questa indagine della Corte, sì, dei Conti sul Comune di Firenze, no? E adesso sentiremo da un Renzi. Che non vorrei che tutto questo fumo vuole, come dire, anche non nascondere, no, ma insomma comunque tenere ma un fumo po' da parte traccia di chi? Fumo l'hanno fatto gli altri, casomai. Sì, ma la controreplica loro, siamo in Bulgaria. Ma che c'entra? Fabio da Milano. Fabio da Milano, buonasera. Tutto collegato, è tutto collegato. Volevo intervenire e complimentarmi con i vertici, sì, Rai. Sì, che hanno fatto i vertici della Rai? Inerenti al licenziamento di quel giornalista che aveva fatto il servizio sulla partita Juve-Napoli. Sì, avete sentito anche prima, pare sia stato licenziato, magari lo chiameremo nel corso della trasmissione perché abbiamo il suo numero, il suo preziosissimo numero di telefono. Trovo giusta questa decisione perché è inaccettabile su una partita di calcio, per lo sport in assoluto, offendere degli italiani, tra parentesi, perché i napoletani... Sì, non è che le aveva offesi lui, le avevano offeso gli altri. Però se lei vede bene l'intervista, era quasi come se lui mettesse le parole in bocca all'intervistato. È stato un po' stuzzicata la persona, d'altronde non sarebbe arrivato un licenziamento se... se non fosse partita dal giornalista la cosa. Secondo me è un po' eccessiva, anzi molto eccessiva. Non lo so, magari ci sono altri motivi, non sappiamo. Comunque pare sia stato licenziato perché non è più negli ordini di servizio, cioè nei turni. Devono fare un richiamo scritto, non lo so, no? Non lo sappiamo quello che è accaduto, pare sia stato licenziato, magari lo chiamiamo e ci chiarisce la cosa. Io voglio far risentire Vaime, perché io impazzisco di fronte a queste cose. Cioè, signor Vaime, che è una persona intelligente sicuramente, ma insomma, come si fa a dire che un carcerato va recuperato e dunque non si può recuperare perché sta in 920 metri quadrati? Ma cosa diavolo c'entra? Cosa diavolo c'entra uno agli arresti domiciliari? Sta a casa sua. Se uno ha la casa di 920 metri quadrati oppure abita in una villa di 3000 metri quadrati, saranno o no affari suoi? Oppure gli arresti domiciliari, secondo Vaime, devono essere per forza in una piccola casa, in una piccola stanza e magari pure con il rancio? Caro Vaime, su, risentiamo. Ma il discorso è, ma ci ricordiamo che le condanne non sono una punizione o una vendetta, sono un tentativo di recupero di chi ha sbagliato. Questo ce lo siamo sempre scordati, il povero Beccaria nella tomba frulla come un girmi. Non significa niente stare ai domiciliari piuttosto che in prigione. Siamo sicuri che il condannato in 920 metri quadri, 4 piani, una piscina coperta, riesca a venire recuperato da questa società? Nessuno se l'è chiesto, noi sì. E te credo che nessuno se l'è chiesto, ripeto, ti credo che nessuno se l'è chiesto. Solo tu te lo sei chiesto, caro Vaime, solo tu! Te lo sei chiesto, solo tu ti sei chiesto questa cosa qua. Ma siamo sicuri che un condannato non può essere recuperato perché sta in 4 piani con la piscina e tutto? Nessuno se l'è chiesto, perché uno sta a casa sua, poi uno può ironizzare, quello insomma, abbiamo sentito anche ieri, abbiamo avuto Sallusti, ne abbiamo discusso, abbiamo anche litigato, questo in parte conferma. Ci siamo confrontati. Caro Vaime, su, adesso non mi fare esagerare. Lascia stare, Vaime, questa roba qua. Vabbè, abbiamo già detto, dai, abbiamo già detto. Che è una prigione dorata. Sì. Ma no, quello lo dici tu che è una prigione dorata, perché quella è un'altra stupidaggine tua che è una prigione dorata. Sì, sì, va. E come la chiami, scusa? 800240024, questa è la Zanzara e con noi Roberto Reggi, coordinatore della campagna delle primarie di Renzi. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come sta? Benone. Senta, ma che potrebbe succedere a Renzi per questa vicenda qui, personalmente? Ci sono addirittura delle ipotesi strane, o no? Ma massimo che gli può succedere è che lo buttino fuori dalla competizione. Ma veramente può succedere questo? No. Sì, può succedere. Sì, adesso voglio dire, arriveremo al top della follia, perché qui c'è un'iniziativa che invita la gente a partecipare alla politica, a un evento straordinariamente bello come le primarie, sì. E c'è qualcuno che dice non va bene, insomma, sembra quasi che il partito debba impedire la collettiva partecipazione suscitata anche dal dibattito molto bello che abbiamo avuto. Però scusi, ma davvero c'è questa ipotesi? Cioè, la state prendendo in considerazione l'ipotesi che si possa arrivare all'espulsione delle primarie per aver violato uno degli articoli del regolamento? Noi non la prendiamo mica in considerazione, perché l'abbiamo mica fatto noi l'esposto. No, d'accordo, ma come vi è venuto, ma come le è venuto in mente adesso questa cosa? Perché è una delle sanzioni previste. È una delle sanzioni previste, cioè ne state parlando di questa cosa qua, questa possibilità? No, noi non ne stiamo parlando, perché sarà il Collegio dei Garanti a parlarne, noi subiremo le decisioni come abbiamo sempre fatto, non c'è, le rispetteremo pure. Ma c'è qualcuno che lo vuole fare? C'è qualcuno che lo vuole fare secondo lei? Non si capisce come mai si siano coalizzati tutti e quattro a dire vabbè, adesso voi questa cosa la dovete pagare perché violate le regole. Noi non violiamo nessuna regola, anzi pensiamo di essere quelli che tengono moltissimo alla partecipazione dei cittadini. Scusi, il fatto che sia stato dunque un esposto presentato da tutti e quattro, sia quelli fuori un gioco complotto. Ormai, e lei pensa che sia, cioè che tipo di sanzione vogliono? Ma non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. Francamente per me è come usare un bazooka per uccidere una mosca, ecco, l'esposto, però. Ma chi decide? Una possibile sanzione? Per l'intero e gli amici suoi lì del Collegio dei Garanti. Beh, gli amici suoi. Perché insomma, li chiama amici perché suoi? Intendo il gruppo del Collegio dei Garanti. Ma voi non ci siete ma là si dentro? Si fida di questi? Perché, no, noi non ci siamo. Si fida di questi qua si o fida? No? Si fida? Guardi. Non troppo, non troppo. Vi faccio un'altra domanda. La dica chiaro. Però, Reggi, no, perché mi fido, ci mancherebbe. Beh, insomma, non mi sembra. Ha detto non troppo. È chiaro che sono state fatte delle regole che noi con pressioni varie e con le nostre ragioni abbiamo modificato per fortuna in meglio, no? Abbiamo messo però scusi online. Questa cosa però, della regola, questa cosa della regola sì. Per cui solo casi eccezionali, voi l'avete firmata pure voi, cioè l'avete l'avete accolta pure voi o no? Sì, no, l'abbiamo accolta anche noi, ma così come avevamo dovuto accogliere per, se volevamo essere candidati, anche delle altre, tipo l'esclusione della registrazione online, che fortunatamente poi siamo riusciti a fare. Cioè, mi spieghi un attimo, siccome loro dicono, questo collegio dei garanti, che in realtà la questione della eccezionalità per chi vuole partecipare al secondo turno era stata già decisa quando fu approvato il regolamento, cioè non è un'interpretazione dopo il primo turno. Sì. Adesso è una conseguenza. Cioè, adesso sono state introdotte delle novità, questa cosa che è successa oggi è in seguito a una novità che hanno fatto loro. Ieri il coordinamento nazionale ha introdotto una novità che non c'era, cioè la possibilità di iscriversi, di registrarsi via mail o via fax, no? Sì, che sì. Prima non era prevista, e noi non abbiamo fatto altro che far conoscere a tutti che c'era questa opportunità. Non abbiamo ucciso con neanche questo, un bambino, con questo, neanche un bambino. Con questo appello, dice lei, no? Con questa con pagina a pagamento. Con un appello che non è che dice votate Renzi, dice andate a votare, cittadini, che c'è una possibilità in più. Non sì. abbiamo ucciso no, ma io su questo no, sono però, d'accordo, scusi, su questo sono d'accordo con lei. Quello però che vorrei capire, Renzi, è che questo comitato dei garanti, no? È come un po' fosse la Corte Costituzionale, cioè loro sono loro, parlano e quella lì è legge. Lei dice che non si fida, lei dice un po' non si fida. No, lei, un po' no, io ho detto che accetteremo, come abbiamo sempre fatto, che se quello che è uscito da loro, il regolamento, sì. non è un l'abbiamo fortunatamente modificato. Cioè l'avete subito? Però l'avete subito? L'abbiamo subito prima e poi abbiamo contribuito a modificarlo in maniera rilevante. Ma su questa cosa qui di chi può partecipare al secondo turno, voi non siete stati d'accordo sin dall'inizio? Avete subita questa cosa, certo, che non fosse aperta? L'unica votazione a cui abbiamo partecipato riguardava il ballottaggio, non c'era scritta la modalità del ballottaggio, la modalità del ballottaggio era decisa dopo, una settimana dopo, quando noi non c'eravamo più, nel senso che noi abbiamo potuto sederci al tavolo delle regole, sì. quando le regole erano già state scritte, ho capito. Perché noi ci siamo seduti dopo il 25 di ottobre che eravamo ufficialmente candidati. Vabbè, lei dice che questa regola sulla partecipazione al secondo turno, sulle modalità di partecipazione al secondo turno, noi non l'abbiamo né scritta né accettata. No. L'abbiamo dovuto accettare quando il 25 abbiamo sottoscritto la vabbè, comunque non l'avete né scritta né accettata, no. Questo è il punto. Se no, fosse no, stato no, per voi, se fosse né coinvolti a farlo. Se fosse poi stato dopo per voi, se fosse stato no, per voi sarebbe stato tutto aperto al ma secondo anche turno. Anche perché è il primo caso nel mondo, che c'è un secondo turno vincolato al primo. Trovatevi un altro caso nel mondo sì. di una primaria dove il secondo turno è vincolato al primo. Non esiste. Scusi un attimo, Reggi, ma Berlinguer, tra l'altro, io ho fatto una battuta prima, però non è troppo una battuta. Non dovrebbe essere al Parlamento europeo, come parlamentare europeo? Vabbè, invece lasciamo perdere. In che senso? Niente. Pure secondo lei? Ma sì, anche secondo me. Cioè, nel senso che chi ha un incarico come parlamentare europeo non è che dovrebbe fare il parlamentare europeo, no? Non il presidente del comitato. Qualcuno potrebbe dire anche Renzi, se fa il sindaco fa il sindaco, invece fa il giustamente. Ah certo, ma fa politica anche il sindaco, attenzione. Sì, però se Berlinguer fa il presidente quello dei garanti. No, vabbè, infatti non ho mica detto niente, va bene. Scusi un attimo, Reggi, ma la cosa che è uscita oggi dalla Corte dei Conti, che cos'è secondo lei? Sui conti di Firenze, scusi il gioco di parole, la ripetizione. È l'orologeria? Ma è la cosa che succede a tutti i comuni d'Italia in questo momento, che per rispettare il patto di stabilità non riescono a pagare i fornitori. D'accordo, ma al di là del merito, dovremmo chiedere ai parlamentari che non hanno ancora sbloccato il patto di stabilità e mettono in crisi tutti i comuni d'Italia. Però non il fatto che esca oggi a tre giorni dal secondo turno, sì, che la Corte dei Conti è l'enfasi che viene data che è sospetta, dai, perché la Corte dei Conti parlano con i comuni tutti i giorni, no? Sì. E rilevano delle cose, delle diciamo, ma in questo caso ha bocciato il comune di Firenze. Secondo lei c'è lo zampino di qualcuno? È uscita apposta questa cosa? È una cosa contro Renzi? Non lo sapevo neanche. In realtà, sicuramente se è uscita oggi, cioè, non è casuale. Diciamo così, dai. Non è casuale, secondo lei? Vabbè, chi ci crede che è casuale? Io no. Che ne so. Votano Bersani alla Corte dei Conti. Si vede. Che ne so, no, ma non lui, qualche amico suo. Ah, cioè? qualche amico suo alla Corte dei Conti. Ha qualche amico anche alla Corte dei Conti. Bello, che è bello, gli ha fatto un favore qualche amico alla Corte dei Conti. Ma così è una battuta, dai. Beh, è una battuta, insomma. Reggi, non è che lei può fare battute sempre. È tutta la battuta, la tiro indietro. La tiro a dire dietro. Ma non lo sapevo neanche di questa cosa dei conti. Ma dai, come non lo sapeva? Può essere che qualcuno... Ma come non lo sapeva? Se non lo sapeva è il suo problema, Reggio. Lei è il coordinatore della campagna, certo, primaria di Renzi. E la corte, qualunque. La corte non dei conti. Non è un elemento rilevante per la campagna elettorale. No, è l'apertura, beh, insomma, di tutti i quotidiani, i siti. Se lei va in giro, domani sarà su tutti i giornali, eh? Se non se ne occupa lei, chi se ne occupa? No, beh, ma io non è che posso contrastare con i giornali. No, eh? Ma è chi una ha... cosa che il Comune di Firenze, io mi occupo della campagna di Matteo Renzi per diventare, sì, premier. Senta, ma quanto avete pagato questo ambaradam? Noi, noi neanche una lira. Il Comitato Renzi non ha versato neanche un euro. Sì, è un'altra associazione, d'accordo, però collegata a Renzi. Non è c'è una fondazione, è, sì, una fondazione, si chiama Big Bang, che è legata sicuramente al sindaco Renzi. Questo però è un mezzo trucco, per uscire fuori dal computo generale dei costi delle primarie. No, attenzione, la fondazione tra le sue finalità è quella di promuovere la partecipazione politica. Sì, no, non ma c'è questo... nessun trucco. No, ma e, livello... non è, e non è che in questo elemento si dice votate Renzi, ripeto. Sì. È una promozione a partecipare. No, ma quello lo so, guarda, quello l'abbiamo detto. Per me potete fare tutte le cose, è tutta una follia questa roba qui. Cioè, appunto, secondo me, se nessuno avesse detto guardiamo... niente... Allora, stiamo alla sostanza. Allora, c'è un partito italiano che sta facendo bella figura nel mondo. Ci sono milioni di persone che vorrebbero, sì, venire a votare e noi li mandiamo via. Secondo lei è una cosa furba questa qua? No, no, ma io, cioè, sono d'accordo. Su questo sono d'accordo con lei. No, adesso tutto è qua, è così, eh? Cioè, lasciamo stare un attimo, non guardiamo... Beh, c'è il caso di Margherita Hack, c'è il caso di Margherita Hack, ma ci sono... c'è un'anziana poverina stamattina, sì, che ha portato il certificato di suo marito, sì, che è malato di tumore, non è potuto venire a votare domenica. Allora, sì, è venuta là, l'ha mandata via! Ma dove? Questo via. Dove? Dove? L'ha mandata via, allora... Ma dov'era? A Piacenza, no? A Piacenza. Ecco, allora io dico, ma per piacere... Ma cosa stiamo facendo? Cioè, hanno mandato via una persona che non è potuta venire perché il marito era malato di tumore. Cioè, che doveva assistere il marito, ha detto io devo assistere mio marito malato di tumore e non ho potuto iscrivermi, eccetera, l'hanno mandata via. Così? Allora, è andata così, nel senso che lei c'era l'orario che iniziava dopo dell'apertura, no? Sì. Per cui lei è andata in un posto dove si mandavano le mail, sì, no? Perché, sì, non si era aperto. A quel punto, adesso, questa mail... che è arrivata all'ufficio elettorale verrà valutata, ok? Sì. Da un gruppo, un coordinamento provinciale che deciderà se questa signora potrà votare oppure no. Vabbè, quello, okay? Allora, dunque, non l'hanno mandata via momento, allora. No, non l'hanno mandata via in quel momento, lei non ci ha potuto andare perché si era chiuso, si è dovuto rivolgere ad altri che... Cioè, dice, è tutto complicato, dice lei, è tutto complicato, voglio dire, ma non ma è vero o no che Bersani hanno, in giro per l'Italia ci stanno arrivando diversi manifesti esplicitamente per Bersani da parte di vari comitati? Ma le dirò di più. Sì. Sono state prodotte 8 milioni di certificati elettorali, sì, okay? Ne abbiamo utilizzati 3 milioni e 100, sì, gli altri 4 milioni e, sì, 900 mila, sì, noi abbiamo chiesto di sapere dove sono, mm, non ci hanno ancora risposto. Che vuol dire questo, scusi? Questo vuol dire che in questo momento potrebbe essere che qualcuno sta registrando in maniera, diciamo, non regolare tanti certificati elettorali fuori dal tempo massimo. C'è qualcuno che potrebbe... Che potrebbe, perché non ci hanno risposto. Noi abbiamo chiesto al coordinamento nazionale di dirci dove sono questi certificati elettorali. E perché elettorali. Non rispondono? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a cioè, quelli che il rischio qual è, scusi Reggio? Il rischio è che qualcuno stia registrando fuori tempo massimo, perché c'era tempo fino, sì, a domenica scorsa, sì, altre persone che verranno a votare. Elettori di Bersani, evidentemente, se lei lo dice. Non lo so. Se lei lo dice, se no, di chi parla? Io dico in generale, elettori in generale, che mentre c'è tutto questo, diciamo, ambaradan sul fatto che noi abbiamo promosso la partecipazione, in questo momento potrebbe esserci in giro per il paese tanta gente che sta registrando fuori tempo limite. Perché non c'è il controllo di quei certificati. Almeno ho capito, ma secondo lei c'è qualcuno sta registrando degli elettori che sono chiaramente bersaniani? Viene il dubbio, ma non lo dico. Mi viene il dubbio, però non è che si può vivere sempre di dubbi. Nel momento in cui mi dicono, noi abbiamo richiesto di sapere dove sono, sì, finiti questi certificati elettorali, loro non hanno risposto. E di darci una risposta entro le 19 di ieri l'altro. E loro non rispondono. e loro non rispondono. Mi viene il dubbio, lei dice, mi viene il dubbio che in realtà siano utilizzati a favore di Bersani questi certificati. Come sono detenuti dai coordinatori provinciali, che sono tutti bersaniani, che sono tutti bersaniani, il dubbio mi viene ancora più forte, no? Zanzare, io trovo in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma dirà te più vista in città e se no dormire. Gianni D'Ancona, buonasera Gianni D'Ancona, incredibile comunque come nel centro-sinistra dopo la giornata di ieri, che comunque ha sancito un successo, anche se dovrebbe essere la normalità, noi stiamo sempre parlando di cose nuove, straordinarie, il successo di pubblico di un confronto dovrebbe essere la normalità in una democrazia, un confronto in televisione tra due candidati per che aspirano alla leadership di un paese o alla guida di un paese, invece si parla il grande successo, no? Le cose arrivano da noi con anni di, no, di distanza, e tu pensi che non succede dall'altra parte. Ho purtanca la mia donna, in sci per farla riposare. Dopo una giornata come quella di ieri, oggi il disastro. E domani scontro sulle regole. Reggi, prima, coordinatore della campagna elettorale di Renzi, ci ha detto addirittura che Renzi potrebbe essere espulso. Non succederà, ovviamente. Ma sicurati. Non succederà. Però sarei pronto a scommettere tutto il solo agitare questa, il solo agitare questa possibilità. Solo agitare questa possibilità fa pensare. Gianni D'Ancona. Dica. Buonasera. Senta, io ho votato al primo turno per Bersani. Sì. E sicuramente al secondo, al ballottaggio voterò Renzi, ma per un paio di addirittura motivi. Come mai, scusi? Sì, per un paio di motivi. Che è successo? Grande stima per Bersani, però voterò Renzi per due motivi. Allora, il primo motivo, che la parziale vittoria di Bersani, diciamo così, al primo turno non ha fatto, il primo effetto che abbiamo avuto è il ringalluzzimento di Berlusconi. Cioè lei dice per l'orro di Berlusconi o il ringalluzzimento, come dice lei, di Berlusconi, è meglio votare Renzi? Senza ombra di dubbio. E allora lei perché ha votato Bersani al primo turno, scusi? Col rischio che vincesse subito. Ma non pensavo che Berlusconi ritornasse così a sprombattuto, ma si vede che probabilmente il sentore della vittoria di Bersani gli dà fiducia in un suo ritorno, diciamo, perché se vince Renzi lui neanche si presenta, questo è poco ma è sicuro. Questo è poco ma è sicuro. E poi? E poi sicuramente perché Renzi è in grado di vincere poi le elezioni, perché questo è l'obiettivo che si deve porre la sinistra, vincere le elezioni. Qui c'è una faida interna a sinistra, mi sembra un po', come dire, che messa sul personale, diciamo. Comunque no? lei Gianni al secondo turno, cioè domenica voterà Renzi? Sì, sicuramente. Ma secondo lei c'è un po' di gente come lei che ha votato Bersani al primo turno che potrebbe votare Renzi al secondo? Questo non lo so, però sicuramente ho sentito persone che non sono andate a votare al primo turno che vorrebbero andare e votare Renzi, anche gente che non è di sinistra. Vabbè, quello è normale. Al bar perlomeno si parla anche di queste cose qui, diciamo. Va bene, grazie. Una cosa su Saluzzi me la deve far dire, però, visto che ieri è stato vostro ospite. Dica. No, siccome lui sembra che ci tenga molto ad andare in prigione, da come si è espresso da voi, no? Beh, certo, insomma, lui ha proprio abbastanza, da quello che si è capito. Sì. Lui ha il physique du rôle del come dire, dell'ambiente carcerario, ma non come detenuto, ma come Aguzzino. Sì, c'ha proprio quel physique du rôle, capito? Vabbè, ma guardi che è una persona in realtà gentile, una persona. Le devo dire la verità, una delle poche persone di destra, diciamo così, che mi sta un po' in simpatia. Ma anche addirittura lei, l'ha chiamato Aguzzino, all'anima della simpatia. Io parlavo di quel physique du rôle che si respira nell'ambiente carcerario. Anche lei di destra mi sta simpatico. Ma io non sono affatto di destra, lei ha capito male. Di destra, l'unica cosa che non ha lei di destra, sa cos'è? I capelli. Non ha il culto del capo. Non ho il culto del capo, però sono di destra. Io però per tanti aspetti lei è di destra, per come parla della piazza, delle proteste, eccetera. La piazza è la democrazia, caro Cruciani. Sì, no, perché? Ma infatti mica la voglio sopprimere io la piazza. Dico che non porta a nulla, insomma, è una cosa diversa. Vabbè, allora che facciamo? Stiamo tutti a casa, non ci muoviamo. Io sto a casa, abbia pazienza. Sarò padrone o no? Lei sicuramente starà a casa. Io sto a casa. Cioè, senta, una cosina a Parenzo, visto che quando viene qualcuno di Forza Nuova lì da voi, o qualche esponente della destra un po' così, sì, diciamo, eh. Un po' così. Sì. Lui subito si mette sul chi va là. Allora, beh, quando viene lì Borghezio, che è molto più a destra di Alba Dorata, eccetera, eccetera, dovrebbe un po' incazzarsi anche con il signor Borghezio. Ma è diverso, no? È diverso. Ah, è diversa la storia? Ma sì. Ma no, dice delle cose terribili, signor Borghezio, io sono d'accordo con lei. Lo sa, ecco. Ma sì, solo che... Ma ci mancherebbe, dice delle cose terribili, ma le dice che non so, però ha ragione lei. Ma no, ecco, simpatia con quel risolino, con quella battuta, sì, però è pericoloso, certamente, perché Borghezio dice le cose terribili, allucinanti, terribili. Va bene, grazie. Grazie a lei, grazie. Pinuccio d'Arezzo, buonasera signor Pinuccio, che non è il nostro amico Pinuccio from Bari, eh. Dica. Eccolo dove? Arezzo. Sì, allora? Ecco, combatte con lei. No, volevo dire che... se Bersani tenesse al partito e alla vittoria del centro-sinistra alle prossime elezioni, sì, ora diciamo prolungo un momento il discorso che ha fatto il mio predecessore, dovrebbe ritirarsi e far vincere Renzi. Cioè addirittura, ma, cioè, siccome è pressoché risaputo dai sondaggisti e da Renzi stesso che se vincesse Renzi il centro-sinistra catturerebbe molti dei voti dei centro, molti voti dei centro-centrodestra, grillini, eccetera, eccetera, per arrivare probabilmente anche al 45%, sì, per Dani a quelle percentuali lì nemmeno se le sogna. E allora se lui volesse bene al partito e all'Italia dovrebbe ritirarsi e mandare avanti Renzi. Vabbè, ho capito, ma quello che c'entra? È tutto questo. Perché, ecco, non capisco nemmeno perché un elettore, visto che Renzi potrebbe catturare, sì, attirare molti elettori di centrodestra e anche grillini, e non vedo perché uno deve dichiarare di essere un elettore del PD per andare a fare le primarie, insomma. Ecco. Va bene, grazie Pinuccio. Francesca, provincia di Oristano. Andiamo. Buonasera. Senta, ma me la dà una mano, per favore, a telefonare a chi l'ha visto, per sapere se hanno visto Nichi Vendola. Perché? Ma io penso che in Puglia lo stiano cercando proprio. Ma lì c'è stato un ciclone, ci stanno i disastri, lì va in giro chiacchierando delle malefatte della cosa di Renzi e di no. Ma lo sa che è il presidente di una regione. Ma gliel'ha detto nessuno a quest'uomo. La stessa cosa si potrebbe dire, a parte che credo sia in Puglia, si potrebbe dire la stessa cosa di Renzi, eccetera. Cioè, sono persone che hanno incarichi istituzionali, che hanno deciso di fare una battaglia politica nazionale, hanno altre ambizioni, i cittadini li giudicheranno. Vendono non lo possono più giudicare perché ha il secondo mandato. Renzi invece, se non vince la primaria, magari si vuole ricandidare a sindaco di Firenze, i cittadini di Firenze giudicheranno il comportamento di Renzi in questi mesi, se ha fatto bene alla città oppure no. Perché non ho sentito nulla su questo in giro, veramente, non ho proprio sentito nessuno che dice la protezione civile, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, giù in Puglia va bene tutto. Ma no, non va bene tutto. Che non va bene tutto, no, poverini, cioè, stanno messi in mano i guai e non si sente nemmeno che l'avano allertati con la protezione civile. Beh, grazie, non grazie. Non le do tanto tempo, ma grazie. Lei vive lì? No. Punge e poi fugge da me e cerca il posto. Allora, Salvatore da Napoli, buonasera Salvatore. Buonasera. Dica. Allora, volevo dire per quanto riguarda quel giornalista, quello licenziato che ha detto quelle, sì, cose su Napoli. Sì. Io sono un napoletano, dovrei essere... Sì. Lo vogliamo risentire quella parte di servizio? Ce l'abbiamo? Il servizio del giornalista napoletano, adesso lo recuperiamo. Salvatore, comunque dica. Vendola è a Napoli con Bersani. Sì, a Napoli con Bersani stasera, sì. Salvatore, allora? Sì, no, volevo dire che se è stato licenziato per questo, voglio dire che è un po' troppo licenziare una persona solo per quello che ha detto, voglio dire, con questi, ma non lo sappiamo, innanzitutto non c'è una conferma diretta, ma insomma probabilmente sarà così, e poi non sappiamo il motivo, cioè, Non sappiamo esattamente il motivo di questo licenziamento del giornalista di Torino, che avevamo avuto anche ospite, ti ricordi? Sì, come no, come no, proprio dopo il fattaccio. Sì, per questo dicevo, voglio dire, se questo è il motivo mi sembra un po'... Risentiamo quel passaggio incriminato. Giampiero Mandola è andato intorno alle 16 ai cancelli a sentire i tifosi. Oh, Vesuvio Navali tu! I napoletani sono ovunque, quindi non è che possiamo considerare sud, centro, nord, sono ovunque, un po' come i cinesi. Che voi li distinguete dalla puzza con grande signorilità. Sì, molto elegantemente, sì, sì, certo. Allora, eravamo con Salvatore da Napoli, mi sembra, no? Allora? E niente, solo questo volevo dire. È inutile, se mi sembra un po' troppo, se era questo il motivo di licenziare una persona. Ne cioè, dicono tante, voglio dire, come dire, i gay sono un mondo a parte, ma che serve? Cioè. Lei da Napoli dice, è sbagliato licenziare una persona semplicemente per aver messo in onda quelle cose o per aver impaginato quel servizio in quel modo contro i napoletani, facendo sentire quelle voci, no? Forse solo questo. Sì, dai. Va bene, Salvatore. Luca da Brescia, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Senta, io volevo semplicemente dire, ieri sera ho avuto modo di assistere al faccia a faccia Bersani-Renzi, sì, e sono rimasto, come si può dire, altro modo sorpreso, e tengo a precisare che ho visto forse un terzo, il terzo finale della trasmissione, che per ben due volte Bersani alla domanda... Un attimo solo. Abbassa, signor Amandola, Giampiero Amandola, diretto interessato, riproviamo un attimo, riproviamo, che diceva... Luca? Io? Sì, vada, finché non rispira volte, di nuovo. Per Bersani, a domanda, mi dica i programmi, adesso non mi ricordo, che avrà su questo argomento piuttosto che su quell'altro, ha detto, signori, io non dico niente, perché governare è anche sorprendere, vedrete. Ora, le primarie dovrebbero essere una cosa in cui ognuno si presenta raccontando i propri programmi, spiegando cosa vorrà fare per acquisire la fiducia degli elettori e delle persone che lo ascoltano. Che una cosa del genere venga fuori due volte in un terzo della trasmissione, suppongo che nell'arco completo sarà venuta quattro, devo dire, lo trovo perlomeno un po' ridicolo. Ecco. Cioè il fatto che ha detto non dirò tutto perché in politica bisogna anche stupire qualche volta? Esattamente. Va bene, è vero che non bisogna dire tutto, cioè bisogna anche... Ma forse bisogna avere qualcosa da dire, che è diverso. Ma dai, questo potrebbe essere messo così, oppure... non so, perché se in un momento che tu devi raccontare i tuoi programmi dici che non li direi perché vuoi sorprendere, può essere molto facile o molto difficile, può essere perché sai tutto più uno o non sai niente di quello che vuoi fare, e la cosa è sorprendente da una persona come Bersani che si propone per governare l'Italia. Va bene, grazie. Eric da Lodi, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. No, ma io volevo intervenire dopo aver sentito Regi, il responsabile della campagna di Renzi. Io mi chiedo, ma a che cosa stanno partecipando? Ci sono delle regole che vanno seguite, punto. Okay? Se uno partecipa ad una gara... Lei ha viva voce, lei è in viva voce, lei è in viva voce. No, non sono in viva voce. E allora non si sente nulla, scusi. Mi senti meglio adesso? Sì, meglio, sì. Ok, no, ma stavo dicendo, se uno partecipa ad una gara e per la quale dice che è tutto truccato, vuol dire, alla fine... Non la sento, è Carlo da Torino, buonasera. Ah, buonasera. No, senta, io telefonavo perché, ci ho chiamato perché volevo segnalare, volevo porre un tema che secondo me in queste settimane di dibattito politico forse non è stato sufficientemente colto. Io lo colgo anche con un po' di allegria, cioè con un po' di stupore misto insieme. Cioè qui bisogna dire che oltre alle, come dire, diverse posizioni politiche, insomma, no, che si stanno affrontando, qui c'è un tema drammatico all'interno del Partito Democratico. Il tema drammatico è che se vince Renzi, è il crollo, come dire, di un apparato, è il crollo dell'apparatnik. Io sono, come dire, sono rimasto sconvolto. Cioè, io l'altra sera ho visto quel collegamento fatto, come dire, no, dal comitato elettorale. Sì. Sembrava un collegamento del CUS fatto da una sezione di Nova Sicilia. Perché? Tutti pallidi, tutti intimoriti, il terrore dipinto sul volto. Bersani in questi giorni sempre più pallido, Rosi Bindi sempre più emaciata. È evidente che questa cosa qui, come dire, no, distrugge completamente i danni, come dire, di apparato politico. Che cioè, non ho capito, Renzi distruggerebbe questo apparato? Totalmente. E lei che fa? Ha votato, andrà a votare oppure no? Insisto, scusi, no, io non ho votato perché ho fuori e non sono pigro e non vado, non ho voglia, non so come si fa a votare adesso, la giustificazione, insomma, non cioè, gliel'hanno resa complicata la cosa? Poteva si poteva registrare in quei 20 giorni online? Sì, io non potevo perché avevo da fare, ero via, eccetera. Però quello come che non poteva? Basta un computer, uno si iscrive e si registra online. Sì, ho capito, ma avevo altre cose, come dire, per la testa, eccetera. Non era interessato? Com'è? Non era interessato? No, io sono molto interessato, nel senso che, come dire, sono un signore che segue la politica, ho 57 anni, la seguo da parecchio tempo. Se dovessi sì, però non si può dire, non si può dire io non voglio la burocrazia, ho visto i comitati di registrazione, sembravano sezioni del PQS, eccetera, eccetera, e poi dire, beh, però io non ho partecipato, Renzi distruggerebbe questa cosa. Allora, se lei voleva partecipare, voleva la vittoria di Renzi, no, poteva registrarsi. Io non ho partecipato perché ero via, non potevo partecipare. Era via. Perché ero Ma lei che cosa via. Ha votato alle passate elezioni? No? Non per farmi gli affari suoi. Io nelle passate elezioni ho votato Partito Democratico. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo sueno, non le importa. Siamo qui 20:18 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Che c'è? Che è successo? Che vuoi? Mi meraviglio che tu non sei, come dire, attento a e curioso cosa? Dell'evoluzione della vicenda del sequestro del signor Spinelli. No, è un argomento di cui veramente non mi interessa nulla. Quasi, no, a meno che non escano fuori delle cose clamorose. Naturalmente. Stanno uscendo cose molto importanti. Che sta uscendo? Questo ruolo dei servizi segreti, della scorta variata del Premier, del perché è stato preso dalla sua scorta e non c'è stata nessuna relazione di servizio. Secondo me c'è qualcuno che si potrebbe sentire su questo tema, su questo. Io gliel'avevo segnalato anche a Giuveriggio, signor direttore Cruciani, ma su questo vicino dei servizi segreti, ci sarebbe qualcuno. Ma lo vuoi risentire Isidori, lo vuoi risentire? No, Isidori mi mette male, Isidori. Ma l'elettrauto in pensione da poco in Parlamento, poverino, sbeffeggiato da tutti. A me fa quasi tenerezza, signori signori. Mi dispiace che dici delle sciocchezze, ma insomma. Vabbè, dice delle sciocchezze, dice quello che pensa, lo dice con questo dialetto marchigiano così spinto, così così marcato, e dice una cosa talmente banale, ma se vogliamo quello che pensano molte persone, dunque popolare. Ma non è il fatto che siccome lo pensano in molti queste ma lascia, ma tu come al solito ti fermi alla questione di merito. Questione di merito è irrilevante, cioè se che tu la pensi diversamente dal signor Eraldo Isidori sulla carcerazione. Io penso invece che se uno è in carcere, è stato condannato a 3 anni in carcere, ci deve restare, perché in Italia manca pensi così. Così. In Italia manca una cosa fondamentale, che è la certezza della pena. Ma non diciamo scempiaggini, è pieno di persone detenute, ristrette, che scontano tutta la pena. Un'altra cosa sono la legge Gozzini, i benefici che poi qualsiasi detenuto può godere, ma che populismo basso. Isidori. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Quando la zanzarita. Beh, secondo me è una delle cose più belle che io abbia mai sentito negli ultimi anni. Negli ultimi anni. Bello è, che so, uno che reclama. No, poesia, è stupendo, bello, dai. È stupendo, dai. Ma come si fa? È un intervento talmente talmente pop, genuino, pop. Genuino, pop, c'è tutto dentro. Isidore è il mio idolo assoluto. Idolo assoluto, lo chiamerei quasi. Andare in vacanza con Isidore? Beh, potrei andare in vacanza con Isidore, adesso so, mi sembra un'esagerazione, insomma, no? Oh, intanto i signori di Dagospia riportano quello che ha detto Storace ieri qui alla Zanzara a proposito di Faccetta Nera, no? Te lo ricordi, ah, no? Come, Faccetta come? Nera. Lo vogliamo risentire? Si arrabbia, lui lo, lo vogliamo sentire Storax? Storax su Bella Ciao di Seducativa? E sentiamolo, dai. Storax. Storax. Arriva? Scusi, ma come la giudica questa presidente anti-occupazione che canta Bella Ciao? Una che l'ha stonata, diciamo. No, ho capito, ma era... Ma non come canta. Ha respinto il blitz. La presidenza dovrebbe educare, cioè non dire certe cose, cantare certe cose. Perché? Cioè, che è diseducativo, Bella Ciao? È diseducativo, certo. Oddio, la riducono. Bella Ciao, secondo Storace, sarebbe diseducativa, ma contro Monti che andrebbe arrestato? Beh, siamo al top, eh. Storace. No, Monti, dico, Monti. Ma sì, sì, ho capito. Sì. Non ha il fisico per fare il criminale, dice. Ah, per me lui è un criminale, molto peggio, molto peggio. Andrebbe arrestato per tradimento, tradimento della nazione. Ma si sì, è arrestato, cioè, i carabinieri, dice lei, i carabinieri. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Cioè, sulla base di quali reati, scusi? Alto tradimento. Alto tradimento. Ha consegnato l'Italia alla potenza straniera. E quale sarebbe questa potenza straniera? La Germania. L'Europa, Germania. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco, como una muchachita. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho. E siamo qui, Pierpaolo, provincia di Treviso. Buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Vada, vada. Un abbraccio a Parenzo. Allora, intervengo per su due questioni, uno le regole e due Sallusti. Mm. Allora, per quanto riguarda le regole delle primarie, l'intervento di Reggi, adesso mi sono un attimo calmato, ma devo dire che butta un'ombra, getta un'ombra veramente inaccettabile rispetto a quella che è stata una manifestazione di democrazia stupenda, straordinaria. Ci sono delle regole. Sì. Peraltro le regole sono state cambiate due volte. Una volta è stata richiesta da Renzi. Ma è un gioco delle parti, tattiche di guerriglia, cioè hanno approvato un regolamento che non andava bene a Renzi, poi è stato modificato, poi ci sono stati dei ritocchi che non bastano. Su questa storia della partecipazione al secondo turno i renziani si sono sempre opposti e adesso, sì, quando, come dire, si arriva al ballottaggio, evidentemente loro vogliono che vada a partecipare più, che vadano a votare più persone e dunque rimettono in discussione alcune cose. Capisco le sue argomentazioni. Ma insomma, in guerra c'è anche questo, su, dai. Si tratta di guerra? Ma sì, ma una guerra non nel senso tecnico del termine, guerra politica. In politica c'è lo scontro frontale anche grosso. Battaglia, lotta politica. Certo, lotta politica, battaglia. Ecco, faccio un inciso, io non sono un iscritto al PD, sono un vecchio repubblicano, amico del faraone, una volta si chiamava così il vostro, com'è che lo chiama, contro il declino? Fermare il declino, sì. Fermare il declino, ecco, il faraone. Era un giovane repubblicano all'epoca, poi ho lasciato l'attività politica allora? Per dedicarmi. Ecco, allora, io quello che voglio dire, due volte sono state cambiate le regole. Mm. Allora, come si dice, tre indizi fanno una prova. Se si cambiasse per una terza volta le regole che sono state già definite, beh, mi sarebbe un coglione, mi permette il termine, ma nella vostra trasmissione passa. Sì. Invece il signor Bersani è un signore, ha accettato di modificare. Ma quando ha accettato? Ma perché lei dice ha accettato di modificare due volte? Ma molto, molto semplicemente. Ma su questa cosa, su questa storia dei fax, dice lei? Ma no. Su che cosa? Fax. Perché non prevedeva le democratici, non prevedeva, perfetto. Ok, quindi la Pupato, peraltro, che io ho votato, sono del Veneto e la stimo perché la conosco per l'impegno che ha avuto e le capacità che ha dimostrato. Dopo però evidentemente, come credo si sia capito, Bersani al prossimo turno, non ho bisogno di reiscrizioni. È stata data una possibilità alla Puppato, è stata data una possibilità a Renzi. Questa è la prima modifica di regola. La seconda modifica di regola, che peraltro Renzi non voleva, era quella del ballottaggio. Ben gliene ha giovato, ben gliene ha giovato. Ora, che il signor Renzi, in questo momento si adombri delle macchinazioni, francamente getta un'ombra che non è accettabile. Detto questo, e chiudo con la parentesi delle primarie, allora... per quanto riguarda Sallusti, mi consenta. Non è vero che Vaime è l'unico, ce n'è un altro, il sottoscritto. Sì, allora io le faccio una domanda e la prego di rispondermi. Quale carcerato avrebbe accesso ai mezzi di comunicazione, internet, mi permetta, di comunicazione con terzi. Ma non è ancora carcerato. Non è carcerato ancora, devono decidere le modalità. Quando saranno gli accordi? Mi faccia dire un'ultima cosa, guardi che non sono tutti uguali. Anche l'illusione che siamo tutti uguali, che i carcerati sono tutti uguali, non è così, non è vero. Lo capisco e lo comprendo molto bene. Il signor Cuffaro, anche una questione. Le domando, Casa Santanchè, che ovviamente ieri Casa Sallusti Santanchè, ecco, sì. Vado a vedersi le misure camerali. Allora, è possibile, è immaginabile che possa essere vigilata la possibilità, nel momento in cui fosse confermata la carcerazione del signor Sallusti, per non fare anch'io ho dei dubbi, Non ho capito. A delle modalità di comunicazione verso l'esterno che sarebbero precluse a qualsiasi Pierpaolo, lei si sta portando, mi risponda a questa domanda, non lo so quale saranno le possibilità di comunicazione di Sallusti dopo. Per questo la ringrazio, la saluto e abbraccio nuovamente parente. Lei deve stare tranquillo perché il problema ancora non è stato risolto, perché non sappiamo in che modo sarà gestita la carcerazione domiciliare di Sallusti, e se si arriverà alla carcerazione. Ma scusi, le dà fastidio che Sallusti comunichi? Non ho capito. No, ma io credo che qualsiasi carcerato laddove si recluda ai domiciliari, che si ritenga, ma per carità di Dio, ma io voglio dire, nel momento in cui è uno recluso, che siano arresti domiciliari o non può comunicare con l'esterno, secondo costretto te. in una casa circondariale abbia dei limiti, no? Dipende da cosa viene deciso dal magistrato di sorveglianza, capito? Ovviamente staremo a vedere. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Pattini a rotelle, come il vento andavi tu, ad un tratto hai fatto un volo e ti sei trovato giù, ora ti fa male. Ma il discorso è, ma ci ricordiamo che le condanne non sono una punizione o una vendetta, sono un tentativo di recupero di chi ha sbagliato. Questo ce lo siamo sempre scordati, e il povero Beccaria nella tomba frulla come un girmi. Non significa niente stare ai domiciliari piuttosto che in prigione. Siamo sicuri che il condannato in 920 metri quadri, 4 piani, una piscina coperta, riesca a venire recuperato da questa società? Nessuno se l'è chiesto, noi sì. E la puntura la diamo questa sera al signor Vaime. Vaime Alessandro. Ma noi chi poi? Noi chi? Sì, noi. Quando dice alla fine noi ce lo siamo, noi. Ma noi chi? Noi Vaime, anche lui parla col plurale maiestate. Noi. Fai noi. Sentire il finale è terribile. Cioè, ma noi chi ha Coffee Break? Ah, noi di Coffee Break? Sì, la trasmissione. Vabbè, che è una buona trasmissione, Coffee Break. Alessandro da Grosseto, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Vada. No, volevo portare la mia testimonianza a beneficio di Parenzo e di tutti quelli che blaterano di regole. Allora, io non ho potuto, per motivi che poi spiegherò dopo, non mi sono potuto iscrivere alle primarie del primo turno. Sono andato al comitato elettorale per iscrivermi e premessa doverosa, io ho la residenza in un comune che però caso vuole che è limitrofo a dove a un comune limitrofo dove abita mio padre, dove anche il mio ufficio, in un posto che si chiama Albigna. Non so se lo avete sentito nominare. Sì, come no. Comunque, esatto. Fondamentale. Allora? Esatto. Non ho capito. Quindi in questi giorni sì. Non ho avuto modo di iscrivermi perché ero a spalare il fango dalla casa. Allora? Quindi adesso sono andato a iscrivermi, adesso la commissione mi dirà sabato, forse domenica, se la mia giustificazione è lecita per potermi consentire di votare domenica. E vabbè, questo è il coso. No, perché siccome appunto io però non figuro residente ad Albigna, no, può essere anche messa in dubbio la mia No, scusa Parenzo, scusami Parenzo, colleghi. Allora, cosa devo fare domenica? Mi devo presentare con la domenica mattina, mi devo presentare al seggio con la carriola piena di fango per dimostrare ma non sarà mica la fine del mondo. Spalare il fango con la casa alluvionata? Cioè, non vi sembra tutto questo ridicolo? No, scusi un attimo Alessandro, però le potrebbero rispondere, lei ha avuto 20 giorni di tempo. Io per 20 giorni ho spalato fango nell'appartamento che non esiste più, dove c'erano anche i miei computer. Ma guardi che la faranno votare, caro Alessandro. Ma sicuro, adesso non facciamo. Perché lei dice ma? Ma perché l'aria che si respirava in quel locale non era così tanto... Ma non è che sono un gruppo di trinari ciuti che no. Adesso però qualcuno magari sì, qualcuno magari Parenzo. No, ma state descrivendo questa roba come fossero un gruppo di trinari ciuti che non vogliono fare votare la gente. Cioè veramente. Sì. Ma che cos'è che frullava? Io, per esempio, che cos'è che frullava come un girmi? Chi è che frullava come un girmi? Frulla come un girmi. No, l'ho sentita prima durante la trasmissione. Vai, me l'ha detto. Che ha detto? Frulla come un girmi. Citando Beccaria, parlava di Beccaria. Ma è Baime che l'ha detto, frulla come un girmi. L'ha detto Beccaria, sì. Vabbè, Alessandro, comunque, guardi, non si preoccupi. L'ha detto Beccaria, l'ha detto Baime. Sì. Quanto siano ridicole e pretestuose. Cioè io per esempio quando avevo la residenza a Roma, sì, mi ricordo nel 93 quando c'erano candidati Rutelli e Fini, cioè per dire, al primo turno nessuno dei candidati mi aggradava e non andavo a votare, al secondo turno pur di non far vincere Fini andare a votare Rutelli, voglio dire, ma è normale, lei dice una cosa è normale, voglio dire, ma però le elezioni sono una cosa e le primarie, sì, diciamo, però questa cosa della giustificazione adesso è ridicola, la giustificazione è ridicola. Lei chi andrebbe a votare al secondo turno? Allora, posso dirlo? Sì. Posso dire anche la motivazione? Sì, beh, insomma, se non è troppo lungo. No, molto semplice. Vado a votare Renzi. Sì. Soprattutto dopo aver letto l'altra domenica l'editoriale di Scalfari dove lo paragonava a un nuovo Craxi. Craxi. E io ho detto, grazie Eugenio, mi hai convinto. Vado a votare. Grazie. Beh, come si dice, se Atene piange, sì, Sparta di certo non ride, no? Bravo, bravo, bravo. Grazie. In questo caso, se Atene piange, ma in realtà piagnucola. Sì. Sparta è nel caos più totale. Nel caos più assoluto. Parliamo del PDL in questo caso. Parliamo del PDL, di quello che resta del PDL, di quello che resta. Bella perché... anche questo paragone, perché Atene effettivamente è più il PD, il centro-sinistra. È venuto così, Sparta. Ma è venuto così. È bello anche, ma è azzeccato perché effettivamente sono un po' spartani nel PDL, effettivamente. Beh, oddio, insomma, spartani io non li definirei proprio spartani, cioè, visto l'imperatore, visto l'imperatore proprio spartani non li definirei, insomma. No, l'imperatore non è spartano. No. Ma i sudditi poverini non possono neanche fare le primarie, figurati, si è portato via l'urna, il sovrano ha preso l'urna e è scappato via, la stava costruendo, ha preso l'urna, scappato subito via con l'urna, Arcore ha visto che la via dell'umiltà c'era Angelino che come un fabbro stava costruendo questa urnetta con la fiamma ossifica, ce lo vedi, no? Sì. L'urnetta che si stava costruendo, è arrivato lì, fa: cosa stai facendo, Angelino? Ma no, stavo costruendo l'urna, via, porta via tutto, bombi, porta via l'urna subito. Beh, chiediamo cosa accade a uno di quelli che si era candidato, aveva raccolto le firme, certo adesso una figura di palta, per usare un eufemismo, la fa anche lui personalmente, ha raccolto tutte le firme, tutto preciso, perfetto, cioè, vediamo le firme, le primarie. Noi non ci credevamo sin dall'inizio, Parenzo, Noi non ci credevamo sin dall'inizio. L'abbiamo detto subito. Però noi siamo e qui. E gliel'avevamo anche detto. Dei poveri menestrelli della radio noi siamo, no? Rispetto a quelli che menestrelli poveri. È vero, poveri no, però menestrelli della radio. Ci sono invece le persone che fanno politica, giustamente, che fanno, raccolgono le firme, si impegnano, eccetera, eccetera, eccetera. Alessandro Cattaneo, buonasera. Eccoci, buonasera. Come andiamo? Andiamo? Andiamo che vabbè, voi usate il passato, siete ormai su che cosa? Ah, sulle primarie, dice sulle lei. Sulle primarie. Beh, perché lei ancora ci crede? No, però formalmente diciamo che ho visto un tweet qualche minuto fa di Angelino Alfano che diceva: prossima settimana ufficio di presidenza con Silvio Berlusconi per decidere delle primarie e della forma migliore per affrontare il futuro. Questo chi l'ha fatto? Angelino Alfano. Ma non conta nulla Alfano, cioè Cattaneo ancora questo Alfano. Cioè, lei continua. Ma io per carità, con tutto il rispetto, però non è che Alfano può dire la forma migliore, le primarie, eccetera. Dunque, Cattaneo, partiamo da una cosa, lei che sa tutto, o più o meno. Il 16 dicembre, questo la possiamo cassare questa data? Diciamo che la sensazione, anche se non c'è l'ufficialità, è che le primarie si allontanino, anzi si siano allontanate inesorabilmente. Però insomma io e altri lottiamo per una battaglia di coerenza, ma soprattutto perché, a differenza di molti che guardano solo ai vertici nella speranza di magari trovare qualche posto in lista in posizioni agevoli, noi guardiamo per esempio ai 15.000 che hanno preso le firme, hanno firmato per me, e vi garantisco che mi chiedono, mi dicono: ma allora cosa succede? Si fa, non si fa? E purtroppo rischiamo di fare l'ennesima figura di cacca, di mancata credibilità. Figura di cacca, diciamo, la figura di palta, figura di palta. Di palta è meglio di cacca? Lei come la definisce? Perché in questa Sparta così a regime assolutista, dove c'era anche un regnante che è stato per molti anni amato e contornato da cortigiani eccetera, adesso era il tempo della democrazia, è il tempo della democrazia, lei dice? Beh, forse prima allora bisogna fare la rivoluzione e dopo faremo la democrazia, non lo so. E la rivoluzione come si fa? Defenestrando l'imperatore? La rivoluzione si fa con quello che stiamo cercando di fare dalla base. Scusi, però l'impero come si mediante via dell'umiltà. No, scusi, però Cattaneo, diciamo la verità, lei è vero o no che si può definire l'imperatore? Cioè non è possibile che tutto dipenda ancora dal gesto, dalle frasi e dai detti e dai non detti di un uomo? Ma non le sembra assurda questa? Ma su questo io sono perfettamente d'accordo. Anzi, ho capito, però che probabilmente pure l'imperatore avrebbe di trovare qualcun altro che di petto prende le situazioni e manda avanti il regno. No, io credo che per esempio c'è stata una fase storica del PDL verso giugno, dopo le amministrative, l'ufficio di presidenza di inizio giugno che aveva già deliberato all'unanimità le primarie, quello era il momento di fare scelte anche forti, drastiche, azzerare i vertici del partito, bisognava farlo a giugno, allora là sicuramente poteva dare un ho capito ma oggi detto, a lei Berlusconi cosa appare? Un imperatore incerto, un imperatore a fine regno che non sa cosa fare, non è un imperatore a fine regno deluso anche un po' dai suoi generali, perché in fondo probabilmente sperava, pur con tutte le difficoltà del caso, che il subentro potesse essere... Vabbè, lei ha sempre una parola buona per Berlusconi, Lei ha sempre una parola buona, non arriva mai a dire basta con l'imperatore. Lui l'ha detto, voglio fare il padre nobile. Facesse. Probabilmente, come dire... vede che non sia in grado di camminare con le proprie gambe, quindi ho capito, però lo vede lui, ma insomma lei dovete che è direttamente l'anima. Lei è direttamente implicato in questa vicenda, essendo una primaria. Arriva Berlusconi e dice io le primarie non le voglio più fare, meglio non farle, e tutti quanti si agitano, alla fine le primarie vengono più o meno sconfessate, almeno quelle del 16 dicembre, e lei non dice niente contro l'imperatore. Ma come? Io, Giorgia Meloni soprattutto, per esempio, abbiamo detto in maniera molto forte che le primarie devono... Ma non le fa venire la depressione sta roba qua? Cioè non la fa un po' deprimere questo atteggiamento dell'imperatore? Ma mi fa più arrabbiare, come ho già detto oggi. Arrabbiare? Esatto. Ma allora, come me tanti del centrodestra vivono questo sentimento. Ma cosa formatta? Ormai non formatta più niente, c'è niente da formattare lì. Ormai formattati tutti, pure noi. Vi ha formattato lui. Vi ha formattato. C'è da ricaricare il software, c'è, e bisogna trovarlo. Ognuno ha visioni un po' diverse. Io dico che c'è da buttare via tutto, comprare un computer nuovo, te lo dico io. Inutile. Bisogna rivoluzionare ripartendo veramente dal basso, e quindi l'apertura attraverso le primarie al nostro elettorato è la strada. Cattaneo, scusi un attimo, che ho il traffico, poi riprendiamo. Una cosa sola, ma lei non si vergogna anche un po' in queste ore di quello che sta succedendo, di questo caos? Cioè, si vergogna un po', mi dica la verità, rispetto a, perché anche lì ci sono problemi come abbiamo sentito oggi, però comunque le primarie le fanno, grande successo, telespettatori, Rai 1, eccetera. Voi state ancora lì a fa bubù che non si sa bene quello che succede. Non si vergogna un po'? Ma ho letto il tweet a proposito delle primarie del PD, anche di Lupi, che diceva, tra l'altro a se stesso, che lo spettacolo gli ha dato a Porta a Porta è stato piuttosto demoralizzante. Ecco, ma lei si vergogna un po' in questo frangio, in queste ore? Mi vergogno un po' perché, insomma, stiamo dando uno spettacolo per noi, o no? O non si vergogna? Magari se non si vergogna. Io preferisco avere immediatamente uno scatto d'orgoglio per non solo avere un atteggiamento passivo, ma dire no, io ci metto la faccia e continuo a combattere, perché in fondo sono un, come si dice in questi casi, dirigente di partito, essendo un sindaco di capoluogo, e lo faccio e l'ho fatto orgogliosamente sotto il simbolo del PDL. Vorrei portare un valore aggiunto e positivo al PDL, ed è per questo che dico queste cose che per molti sono rivoluzionarie, sono ormai non sono più rivoluzionari, invece credo che siano le uniche cose vere e utili per il centrodestra da dire. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. E siamo qui alle 20:50 con Alessandro Cattaneo, incazzatissimo per questa vicenda del quasi annullamento delle primarie, anche se lui ha ancora qualche speranza, quella di gennaio, chissà. Scusi, se Berlusconi fa Forza Italia 2.0, Forza Italiani, lei che fa, Cattaneo? Bisogna andare oltre, sono questi schemi. L'idea che ci sia Forza Italia 2.0, Alleanza Nazionale 2.2... No, ma lei che fa? Va con Berlusconi o no? Ma io credo che sia venuto il momento di camminare da soli, di fare un soggetto che abbia riferimento più europeo, che nasca dal basso in quest'area. Darò il mio contributo, io non posso avere la presunzione di fare da solo. No, da partito, solo, voglio però... dire, lei in una formazione politica che ha questa ispirazione, cioè Forza Italia 2.0, Forza Italiani, eccetera, eccetera, lei ci entra oppure preferisce di no perché è una roba fatta da Berlusconi, una roba che puzza di vecchio? Ma no, puzza di vecchio. Beh, un po'. non lo penso. Io dico questo: Forza Italia è stata veramente una grande rivoluzione vera nella politica italiana, ma oggi ripensare che la soluzione sia il ritorno al passato per me è sbagliato, quindi io vorrei ambire e lavorerò per questo, per un soggetto nuovo. Io, soggetto nuovo sempre erede del PDL, dice lei. Nonostante ho nel mio cassettino la bandiera di Forza Italia, ogni tanto la riguardo per i momenti... Ah, lei ce l'ha nel cassetto la bandiera di Forza Italia? Altro che se ce l'ho, è la veramente... Che fa? Ogni tanto la carezza, la bacia. Ogni tanto la guardo con un po' di nostalgia, però la nostalgia non vuol dire che bisogna tornare lì, bisogna guardare in avanti, figli di quella storia di cui io dico. Allora, Cattaneo, però dico una cosa chiara: Monti è più autorevole di Berlusconi. Ma lo dica chiaramente, ormai... Cioè, questo si può dire. Si può dire questo, che Monti è più autorevole di Berlusconi? Ma no, anche su questo insomma, ci sono ricamate tante storie. No, io per esempio rispetto ad alcuni, prima ho citato Giorgia Meloni, su cui c'è accomuna... Volete fare un ticket? Metodo. Volete fare un ticket? Ma diciamo che c'è un bel dialogo. Per esempio su Monti però io ho una posizione un po' diversa. E allora già volete fare il ticket, già siete in disaccordo su Monti, andate bene. Però quando c'è... ma la storia del PDL, la sfida vera di rifare il PDL, è riuscire a rifare il PDL, anzi rifare il centrodestra, è di far così per anime diverse. Come il PD ci sta riuscendo, con lo strumento anche delle primarie, anche noi dobbiamo avere questa ambizione, anche anime diverse. Io per esempio su Monti dico che è più la conseguenza delle debolezze, degli errori della politica degli ultimi tempi. E quindi non è per me la panacea di tutti i mali, sicuramente non auspico un governo dei tecnici, però non gli addosso nemmeno le colpe di tutto quello la che la bandiera sta di Forza Italia dove ce l'ha? Il cassetto? Ce l'ho nel cassetto della mia stanzetta di quando ero studente. Ma ogni quanto lo guarda, la guarda sta bandiera, ogni quanto, perché può diventare anche patologico, una volta ogni due mesi. Ogni volta ogni due mesi. La guarda con nostalgia, però. Ma scusi, però allora una bella Forza Italia 2.0. Forza Italia è bello, sarete presente, bello. Ma il sì, me lo ricordo, ma te lo ricorda l'inno almeno? C'è tutti gli inni, com'era Forza Italia? Forza, alziamoci, che siamo in tanti a crederci. Poi com'è? Continua. Io preferivo Azzurra Libertà. Com'è Azzurra Libertà? Com'è Azzurra Libertà? Azzurra Libertà è il sogno che c'è in noi. Siamo al top qui, siamo al top. E meno male che Silvio Cecco la ricorda? No, meno male che Silvio Cecco. Quella è più recente, però per me Azzurra Libertà è il top, Vabbè, Azzurra Libertà è il top, Azzurra Libertà. Però anche qua non è che bisogna guardare al passato. È tutto finito, Cattaneo, è tutto finito. Lo dica, Berlusconi, ci hai rotto le balle con questa incertezza, lo dica. Ci hai rotto, se non lo dice lei. Ma lo dico più ad alcuni berlusconiani cortigiani che hanno beneficiato. Ma li ha creati lui, i cortigiani. Ci dobbiamo sentire domani, 18.30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Edison, perché tu sei l'energia in cui crediamo da sempre. Vi ha presentato La Zanzara.